Europa 24. Buon pomeriggio. Il responsabile del presidente uscente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro, ha appena incontrato a Bruxelles Tom Vilsack, segretario di Stato USA per l'agricoltura, un incontro che naturalmente si inserisce nell'ambito della trattativa UE-USA sugli scambi commerciali, insomma un pacchetto di grande importanza che tocca anche temi strettamente legati all'agricoltura e all'agroalimentare. Allora, abbiamo sentito poco fa Paolo De Castro, sentiamo subito cosa ha raccontato dell'incontro. Ah, innanzitutto la presa di coscienza che il segretario americano, il ministro dell'agricoltura americano, ha messo piede nel Parlamento europeo, ed era la prima volta nella storia, che vuol dire che c'è un riconoscimento implicito dell'amministrazione americana del ruolo che il Parlamento europeo ha giocato e gioca anche in materia commerciale. Il negoziato commerciale con gli Stati Uniti non sarà senza il voto del Parlamento europeo. Quindi, primo, presa di coscienza dell'importanza del ruolo del Parlamento; due, i temi che stanno a cuore al nostro Paese, ma non solo al nostro Paese, all'Europa intera, che sono gli elevati standard di qualità delle nostre produzioni alimentari. Noi non vogliamo indietreggiare in nessuno di questi punti, vogliamo assolutamente che le indicazioni geografiche siano parte del negoziato, siano all'interno del negoziato, perché come abbiamo fatto con il Canada ci aspettiamo che anche con gli Stati Uniti ci possa essere un riconoscimento almeno delle più importanti denominazioni d'origine europee, e naturalmente poi una condivisione di quelli che sono gli scenari di un'agricoltura che diventa sempre più centrale nel dibattito economico europeo, perché sappiamo che c'è una grande sfida, che è quella di produrre cibo a sufficienza per un mondo che cresce e che cambia le diete alimentari. Ecco, perché è importante trovare un accordo con gli Stati Uniti su questi punti? Ma innanzitutto è importante l'accordo con gli Stati Uniti. Vorrei che fosse chiaro a tutti che non è a costo zero un no al negoziato con gli Stati Uniti. Significa che ci giochiamo da 3 a 5 punti di PIL, queste sono le stime più prudenziali. Secondo, sono importanti perché ricordiamo che gli Stati Uniti rappresentano per l'Europa un mercato straordinario per i prodotti alimentari, e ricordiamo anche che siamo in saldo attivo per più di 5 miliardi di euro all'anno. L'Europa esporta più di 15 miliardi e importa meno di 15 miliardi, quindi è evidente che abbiamo una straordinaria opportunità commerciale per i nostri vini, per i nostri formaggi, per la nostra industria salumiera, e tante barriere tariffarie e non tariffarie da sconfiggere. Una battuta sugli OGM: l'Unione Europea sembra aver appena deciso di non decidere, è un'impressione sbagliata? Ma diciamo che la Commissione prende atto con questa la proposta, diciamo, della presidenza greca, che non c'è una maggioranza contro, una maggioranza a favore. In maniera molto pragmatica si sta andando su una soluzione greca che mi pare alla fine sia la più credibile, ovvero gli Stati membri hanno facoltà di decidere come loro meglio possono interpretare questa applicazione o meno, questa produzione o meno all'interno dei nostri paesi. L'Italia in questo credo si sia espressa con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro dell'Agricoltura a favore della posizione della presidenza greca. Infine, questo è anche tempo di nomine. Paolo De Castro ieri citato dal presidente Renzi a proposito di un incarico alla commissione, appunto a commissario per l'agricoltura. Beh, qui non c'ho nulla da commentare, se non sperare che dopo 50 anni in cui la commissione agricoltura non è mai andata, il commissario agricoltura, a un paese del sud, mi auguro che tocchi un paese del sud. Poi che questo sia l'Italia o meno non dipende da me, e quindi staremo a vedere. Staremo dunque a vedere nei prossimi giorni per naturalmente tutti gli incarichi importanti della Commissione. Commissione UE che intanto ha versato all'Ucraina la prima tranche da 500 milioni di euro del nuovo pacchetto di aiuti per l'assistenza macrofinanziaria al paese. Spetta a Kiev decidere come usarli secondo i suoi bisogni, ha risposto chi chiedeva se potessero essere usati per acquistare il gas. Questo ha detto il portavoce del commissario UE agli affari economici Olli Rehn. Ovviamente la questione del gas è prioritaria. Sentiamo allora il punto nel servizio di Livia Zancaner. I rapporti tra Russia e Ucraina diventano ancora più tesi. I due paesi non sono riusciti a trovare un accordo sul prezzo del gas. Kiev, scaduti i termini, non ha pagato il suo debito e Mosca ha deciso di interrompere le forniture. L'annuncio è arrivato ieri mattina da Gazprom. Da oggi Naftogaz Ucraina riceverà solo la quantità di gas per cui avrà pagato. Al momento non è stato effettuato nessun tipo di pagamento né per gli arretrati né per il mese di giugno, ha spiegato il portavoce del colosso russo. Il ministro dell'energia ucraino Yuri Prodan ha garantito che il flusso di gas verso l'Europa andrà avanti ugualmente, ma Bruxelles ha avvertito: c'è il rischio che quest'inverno l'Europa debba fare i conti con una carenza di gas, ha dichiarato il commissario europeo all'energia Oettinger. Intanto sia Gazprom sia Naftogaz si sono rivolte alla Corte di Stoccolma, la prima per chiedere il pagamento di 4,5 miliardi di dollari alla società ucraina, che ha rivendicato invece un prezzo equo. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per ora è tutto, Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.